Sì, mando so a tutti quell'altro, fammi capire. All time rock and roll. Sì. Intanto ciao a tutti. Sì. Ciao a tutti, intanto che aspettiamo quegli altri. Oggi vi parliamo di una puntata speciale. Sì. Puntata natalizia di All Time Rock super and Roll. Natalizia. Super natalizia, vi faremo ascoltare i pezzi del rock and roll dedicati al Natale. E iniziamo questa puntata. Sì. Sì, non so da solo, sembra, ma non so da solo. No. Dai Blink 182, sì, che sono un gruppo pop punk statunitense formatosi nel 92 a Poway, California, una periferia a nord di San Diego. Sono stati spesso citati insieme ai Green Day, ai Rancid e agli Offsprings per aver contribuito a reinterpretare le prime sonorità punk rock in chiave moderna negli anni 80, 90. C'è Luca, oh, è arrivato. No, perché siamo in onda. Che è colpa. Il padre è duro, si aspetta. Non lo so, io ero qui. Oh, Patru, stavo leggendo la tua scaletta. Vuoi continuare te? No, prego, vada. Ah, vado. Come dicevo, sono composti da Tom DeLonge, chitarra e voce, Mark Hoppus, basso e voce, Scott Raynor, batteria, sostituito nel 98 da Travis Barker. I Blink 182 sono famosi anche per aver creato una moda d'abbigliamento rock che si chiama Atticus Clothing, più conosciuta anche come il nome col solo nome di Atticus. Si sciolse nel 2005 in seguito a vari litigi fra Mark Hoppus e Tom DeLonge. Dopo continue voci di una loro possibile riunione in occasione dell'assegnazione dei premi dei Grammy Awards del 2009, l'8 febbraio 2009 i Blink 182 hanno dato l'ufficiale annuncio della loro riunione. La band si è presentata sul palco annunciando l'evento ai fan. Il 27 settembre del 2011 è uscito il loro ultimo album Niger Woods. Ora vi facciamo ascoltare Won't Be Home for Christmas, Blink 182. Outside the carolers start to sing again. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand all year. I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand all year. I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. Won't be home for Christmas, Blink 182. Eh sì, la prima canzone di questo special di Natale. Ciao, spero che... ciao. Sì, abbiamo introdotto un pochino lo special di Natale. Infatti pensavo. Però parliamone meglio. Parliamone meglio. Canzoni. È lo special di Natale. Sì. No, di Pasqua. No, fresco. Canzoni usati, rock di Ferragosto. Natale. Buon Ferragosto a tutti. Buon Ferragosto. Esatto, canzoni di Natale rifatti in versione rock. Anche se ci sono alcuni classiconi, sì, qualche classicone. Pensavo rifatte con le patate. Sì, esatto, al forno, a cartoccio. Saltate. E questa era appunto la prima canzone di questo special di Natale. E come promesso, infatti, ci siamo fatti crescere la barba tantissimo. Siamo tutti con il cappellino rosso, il panzone, invecchiati ancora di più. Siamo invecchiati 30 anni nel giro di una settimana per assomigliare appunto a Babbo Natale. sì, esatto. Allora, vado avanti. Visto che quella che hai appena letto tu, The Blink, la dovevo leggere io. Sì, ce la invertiamo. Esattamente. Ti faccio leggere i Killers. No, io rileggo i Blink. Ah, perché okay. Ho letto i Blink. E dopo rimettiamo i Blink. Anche sei preparato. Non sono, penso mi vince per ogni tre parole. Non sei infatti, preparato. Tu, Luke, assistimi. Io non sono preparato a niente, ve lo dico subito. Assistimi. Va bene, allora, c'ho il microfono davanti. La seconda canzone è dei Killers, è la loro A Great Big Sleed. The Killers sono un gruppo musicale alternative rock statunitense, grazie per assistermi, originario di Las Vegas. I suoi componenti sono il cantante Brandon Flowers, il chitarrista Dave Tuning, credo si pronunci così, sì. E il bassista Mark Stower e il batterista Ronnie Vannucci Jr. Vannucci, probabilmente con origini italiane. Probabilmente basta. Probabilmente. Elementare Watson. La band venne formata da Flowers nel 2003, a suo dire ispirato da un concerto live tenuto da Oasis. Pensa un po', Nando. Pensa un po'. Nell'aprile nel 2002, dopo che egli aveva abbandonato il suo gruppo precedente, che erano i Blush Response, che si erano trasferiti a Los Angeles. Ho un microfono davanti, metà scaletta che mi copre. Grazie, Luke. Prego. Per questo che detto quadri. Per questo ho detto assistimi. E fu proprio Flowers a contattare il chitarrista Tuning mediante un annuncio da quest'ultimo posto sul periodico locale Las Vegas Weekly. Dopo una prima serie di concerti vennero infine scelti Vannucci e Stomer per riempire i posti rispettivamente di batterista e bassista. Il nome della band deriva da un video dei New Order intitolato Crystal, in cui è presente una band fittizia appunto denominata The Killers. We'll be right back. I Killers con Great Big Sleep. Benissimo ragazzi, adesso continuiamo con i fratelli Hawkins, Daniel e Justin. E chi sono? E chi sono? Sono niente po' di meno che i Darkness. Beh, ah, ottimo, buono. Si trovavano a Londra quando si sono imbattuti nei loro amici d'infanzia e così nascono i Darkness. Gli altri due sono Frankie Paulin e Ed Graham alla batteria, mentre il primo è al basso. Così nascono i Darkness e gli esordi li vedono suonare esclusivamente nei pub, ma le loro tute attillate, i loro notevoli assoli di chitarra, il loro essere sopra le righe procura loro ben presto una certa popolarità. Beh sì, sono abbastanza particolari. Sì, molto particolari. Raggiungono l'apice del successo in Inghilterra nel 2003, quando dominano la messa in onda radiofonica con singoli di grande fama come I Believe in a Thing Called Love e la hit natalizia Christmas Time, Don't Let the Bells End. Il loro album di debutto, Permission to Land, ha raggiunto la prima posizione delle classifiche ed ha venduto solo nel Regno Unito più di 1,5 milioni di dischi. E beh, tanti auguri. The Darkness, Christmas Time. Darkness, Christmas Time. Yes, I do. Adesso ce n'è, c'è un altro famoso. Con quella voce bassa. Sì, cioè, nel senso sa. È scocciato. Anche un po' più. Sì. Perché? Anche un po' più brioso. Magari. Ah, no. È Natale, su! È Natale! Ci sono tante le palle negli alberi. È Natale! C'è le palle negli alberi, le lucine colorate. Grazie. È Natale! I regali! I regali! Natale! Tutti i mesi ce l'hai il regalo. Sì. Lui ce l'ha il regalo. Sì. Bel regalo ricevuto oggi, sì, sì. E adesso stavo dicendo Elvis Aaron Presley. Qualcuno ha sentito qualcosa? Cieco. Non ho sentito niente. Sì, sembra che qualcuno abbia detto la finestra aperta. Non capisco. Sì. Interferenze. Sì, rumore di sottofondo. Cieco. Sì. Spiriti. Ma non guardi, sono spiriti. L'unico che sta zitto, non... Dicevo, Elvis Aaron Presley è stato un cantautore, chitarrista e attore statunitense. È stato uno dei più celebri cantanti di tutti i tempi, fonte di ispirazione per molti musicisti e interpreti di rock and roll e rockabilly, tanto da meritarsi il soprannome del il re del rock and roll, o più semplicemente The King, il re in lingua italiana. La sua particolare presenza scenica ha esercitato una notevole influenza sulla cultura statunitense e mondiale. I suoi atteggiamenti, i manierismi, i suoi caratteristici movimenti di bacino, nei quali si produceva sul palcoscenici sul palcoscenico durante lo sbattimento prova, delle canzoni all'epoca gli procurarono un altro particolare l'altro particolare soprannome, Elvis the Pelvis, Elvis il bacino. Anche se egli stesso non amava questo soprannome, Dambacinazio. Come più volte ammise durante le innumerevoli interviste che concesse nel corso dei primi anni della sua carriera. Credo sia anche il suo bacino la parte del corpo. No, Elvis the Pelvis in the Memphis. Dava i bacini a fine delle canzoni. Memphis. E adesso Blue Christmas, Elvis Presley. I'll be so blue, just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. Won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I have a blue Christmas. Elvis Presley, Blue Christmas. Sì, lo sono. Sì, lo so. Io. Sì, lo Conti Miramo. La sai? Lo so. La sai. Allora, ti è l'ancaldo. Ti è l'ancaldaio. Che dopo serve. Continuiamo. Sì. Non mi berciare nelle cuffie. Nelle cuffie. Vabbè, basta, non lo faccio più. Mi indisponi. Questa era la fantastica Blue Christmas di Elvis Presley. E adesso continuiamo con un, secondo me, la canzone natalizia più significativa. Per eccellenza, sì. La canzone natalizia per eccellenza. Quella che associ sempre solo al Natale, alla festa. E poi oltretutto anche i suoi anni questa canzone. Direi sì. Ma li porta benissimo. Bobby Helms, all'anagrafe Robert Lee Helms, è stato un cantante statunitense noto principalmente per essere stato il primo ad aver inciso il celebre brano natalizio Jingle Bell Rock. Più natalizio di questo. Sì. Non esiste altro. Già negli anni 50 si cimentava nel mondo della musica insieme al fratello Freddie, abbassa Masa, con il quale aveva creato il duo musicale The Elm Brothers, che raggiunse la notorietà nei dintorni Bloomington, zona d'origine dei due fratelli. Ha debuttato come solista nel 55 con il singolo Yesterday's Lovin', a cui sono seguiti altri brani come Freedom Loving Guy e Tennessee Rock and Roll del 56. Ha tuttavia raggiunto il grande successo appunto nel 57 con Jingle Bell Rock, brano uscito in occasione del Natale e divenuto un importante classico natalizio nei decenni a venire, che vanta una quantitudine innumerevole di cover da parte di altrettanti artisti. Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Insomma, il tecnico ha deciso che bisognava rientrare per forza, invece ne manda all'altra canzone. Due si sono astenuti, uno si è espresso, i due favorevoli. Chi vabbè. Si è astenuto? Te e il Bindi, non avete preferito? Sì. Sì. E gli astenuti vanno con la maggioranza, da che mondo è mondo. Sì. Vero, vero. Dice di sì, dice. Era Jingle Bell Rock, Bobby Helms. E ora? E ora? E ora? E ora? E ora? Manda quell'altra canzone, prego tecnico. Peanuts, dancing, cotton, don't you see the sun array? Get your hand out of your pocket, baby, go and get the stocking, come meet me by the fireplace. Oh, Christmas in the morning, Christmas in the evening, Christmas in the feeling day. Christmas awesome, Christmas before, Christmas till Labor Day. Christmas is, but I never make a rent. I take nitrous, this is, be a stud, so Santa's baby wrong, baby Santa's like a bun. The birth in the morning, in the evening, Christmas I still won't know. Christmas 17, I can't be the reason that Christmas I still won't know. So Santa, bring your sack with all your summer toys for the good girls and all the good boys this Christmas. Oh, it's Christmas. Oh, summer love. E questa chicca china erano i Der Dick con Christmas All Summer Long. Un po' di sciacquinando, fa qualcosa. Sì, infatti. Christmas. Schopenhauer. E andiamo avanti, parliamo degli U2 con la loro Christmas Baby Please Come Home. Andiamo a parlare sempre di un po' di curiosità degli U2 in questo caso. Loro si sono formati a Dublino nel 1976. Il gruppo è composto da Paul David Hewson, in arte, o meglio, tutti lo conoscono come Bono, il cantante. Bono. Bono lo stesso. Aspetta, mi è uscita un po' male. Bono. Tutti lo conoscono come Bono, che ha il ruolo di cantante. Poi c'è anche David Howell Evans, in arte The Edge, chitarrista, e poi anche Adam Clayton, bassista, e Larry Mullen Jr., anche lui batterista. Nella loro carriera hanno venduto oltre 155 milioni di dischi, impressionante, e ricevuto il maggior numero di Grammy Award per un gruppo, cioè 22 Grammy Award, e possono essere considerati come uno dei gruppi di maggior successo nella scena internazionale. Nel 2005, appena raggiunto il termine minimo di 25 anni di carriera, sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame. Incredibile. U2 con Christmas Baby Please Come Home. It's Christmas. Baby, please come home. Ed erano U2 con Christmas Baby Please Come Home. E adesso andiamo a parlarvi di un gruppo famosissimo, ovvero i Ramones. Beh, più famosi di loro. Furono uno dei più influenti gruppi musicali punk rock statunitensi, formatosi a Forest Hills, nel Queens, stato di New York, intorno al marzo del 1974. Il gruppo fu fra i fondatori del movimento punk rock newyorkese. Tra il 74 e il 96 i Ramones eseguirono 2263 concerti, con una media di 2 concerti a settimana. Nel 1996, con più di 10 album alle spalle, il gruppo si sciolse. 3 membri del gruppo, Joey, Didi e Johnny, morirono nel decennio successivo. L'apprezzamento per il gruppo ha avuto un rilancio intorno agli anni 2000. A partire da quel momento gli album della band compaiono regolarmente nelle liste dei migliori di tutti i tempi, in molte riviste musicali autorevoli come Rolling Stones, che nel 2003 ha posto la band al 26esimo posto nella sua classifica dei 100 migliori artisti musicali di sempre. Nel 2002 la rivista Spin Magazine ha descritto i Ramones come la seconda più grande band rock and roll della storia, dopo i Beatles. Il 18 marzo 2002 i Ramones entrarono nella Rock and Roll Hall of Fame. Ramones, Merry Christmas! E questi erano i Ramones, Merry Christmas. Al cuore. E adesso un altro grande della musica, W. Axl Rose, nome di battesimo William Bruce Rose Jr. Jr. È un cantante e pianista statunitense, famoso per essere il leader della band dei Guns N' Roses, della quale è l'unico elemento rimasto nella line-up originaria. Ha ottenuto il maggiore successo tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, per poi scomparire dalla scena fino al 2001, quando una nuova formazione dei Guns N' Roses ha iniziato un nuovo periodo di concerti. Ha una grande estensione vocale, solo dal vivo 3,5 ottave, anche se non ho idea di cosa significa. No, non neanche io, con sinceramente. Con l'acuto raggiungi i 3,5 ottave. No, sì, però non sapevo la scala. Sì, la scala. Conduce una trasmissione musicale. Bene. È una sua caratteristica. Allora, dimmi la scala degli 8,5. Vediamo. Faccio ripartire la... Aspetta, mi sono ingarellato. Allora, te la dico tutta. Andiamo. Dai, dimmi tutta la scala, piolo per piolo. Bisogna andare avanti, è tardi. Bene, okay, una sua caratteristica è riuscire agevolmente ad alternare voce pulita, voce profonda e falsettone graffiato. Però voce profonda lo devi dire con... Voce profonda. E falsettone graffiato. Non si rende. Il suo cantato è probabilmente nasale. E adesso Axl Rose. Buon nasale a Christmas. Wow. Axl Rose, White Christmas. Buongiorno padre. Ciao. Mi ero leggermente incantato. Leggermente. Leggermente. Adesso parliamo del saccarosio. Battutoni. Vabbè dai. Zucchero, pseudonimo di Adelmo Fornaciari, è un cantatore e musicista italiano. Ma va. Ma dai. Nella sua carriera ha venduto oltre 50 milioni di dischi ed è uno tra gli artisti italiani che ha venduto il maggior numero di dischi. Il suo album Oro, Incenso e Birra, è stato per lungo tempo il più venduto nella storia della musica leggera italiana nel mondo, sostituito di recente da Romanza di Andrea Bocelli, con l'esibizione Live at Kremlin. È il primo artista occidentale a esibirsi al Cremlino dopo la caduta del muro. Nel 96 è il primo artista italiano ad apparire su The Faber Companion, The 20th Century Popular Music. Che pronuncia? La più autorevole enciclopedia, senza sputarmi in faccia, padre. Grazie. Facevi prima direttamente a baciarmi con la lingua. Siamo troppo vicini per parlare. Comunque grazie, lo prendo come un segno d'affetto. È un regalo di Natale. No, sputi in faccia, benissimo. Dicevamo. Solo agli amici più cari. Pensa, anche a voi. Pensa, quelli, no, pensa agli amici nemici allora, eh? La più autorevole enciclopedia della musica moderna, come dicevamo, del XX secolo. Nel 94 è l'unico artista italiano che partecipa al Festival di Woodstock. Nella sua carriera ha collaborato con numerosi artisti internazionali, come ad esempio Cheb Mami in Così Celeste. Una zucchero e kebab mami. Mami. Mi veniva kebab, hai scusate. Fame, la fame allora. Con Così celeste. E adesso andiamo avanti. Classicone di Natale, classicone, anche questo. Bellissima, fantastica. Ci hanno fatto pubblicità dei panettoni e Pandori a Iosa con questa canzone. È fantastica, davvero. Anche questa rappresenta. Sarà contento Zucchero che ci hanno fatto pubblicità di Pandori e panettoni. Ma come, insomma, si diceva settimana scorsa, ognuno i propri diritti li usa come meglio crede. Certo, quello è vero. E andiamo avanti con i Sum 41, un gruppo musicale pop punk canadese originario di Ajax, cittadina dell'Ontario. Tutto bene, Luke? Sono po' tossicomano. È la stagione, ragazzi. La band è stata fondata da alcuni studenti di una scuola superiore locale 41 giorni dopo l'inizio dell'estate del 1996, appunto da cui prende il nome, e precisamente il 31 luglio. Loro sono i Sum 41 con We Wish You a Merry Christmas. Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ed era We Wish You a Merry Christmas dei Sum 41. Mi piace tantissimo. Un Natale punk. Eh sì, un Natale punk. E adesso andiamo a parlarvi di Sir Elton Hercules, perché prima c'era un dibattito su Hercules. John nato Reginald Kenneth Dwight. L'ho finito tre volte. Cosa? Il giochino di Hercules. Ah, di Hercules. Al PlayStation. La mia parte preferita è quando va a Atene e inizia a spaccare i palazzi col Minotauro. Interessante. Lì era, insomma, tanta roba. Beast. Insomma, Elton John è un cantautore, compositore, musicista britannico. È uno dei più grandi e celebri artisti del rock contemporaneo. Con la sua intensa attività musicale ha infatti contribuito notevolmente alla diffusione del piano rock e negli anni 70 è stato la principale espressione del movimento, pur vantando comunque una produzione che spazia dal symphony rock al glam rock al pop rock. Nel corso della sua ormai quarantennale carriera ha venduto ufficialmente oltre 400 milioni di dischi, che ne fanno uno dei cantautori di maggior successo di sempre. Inoltre, insieme all'autore Bernie Taupin, no, forma una delle coppie di compositori più famose e prolifiche della storia della musica contemporanea. Nel 1994 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, mentre nel 98 è stato fatto cavaliere dalla regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica, alla cultura inglese e alla beneficenza. Elton John, Step Into Christmas. Welcome to my Christmas song. I'd like to thank you for the year. E questo era Sir Elton John, Step Into Christmas. Adesso i Train. Una band alternative rock fondata a San Francisco, California, vincitrice del Grammy Award. Tre dei loro album hanno raggiunto le prime 10 posizioni della Billboard 200 hanno venduto oltre 4 milioni di copie negli USA. Tre loro brani sono stati presenti nella top 10 della Billboard Hot 100, compresa la loro canzone di maggior successo, Drops of Jupiter. Dopo lo scioglimento della sua cover band dei Led Zeppelin, il cantante Monahan, alla fine del 1993, mi sembra di essere a Killer Karaoke, lasciò la sua città natale di Erie, in Pennsylvania. Erie? E si stabilì Erie una volta. Sì, Pennsylvania. E si stabilì in California, dove incontrò Rob Hodgkiss. Che si esibiva in un caffè dei club locali. I due cantavano entrambi in un caffè locale. Vi avvolgo. I due cantavano entrambi. In più Hodgkiss suonava la chitarra e l'armonica, mentre Monahan nelle percussioni, tra cui una conga modificata attaccata a un tamburo con un pedale. Hodgkiss era stato il cantante degli Apostles di Los Angeles. Mai sentiti? Dopo aver deciso di formare una band completa, il duo reclutò Jimmy Stafford, ex chitarrista degli Apostles, alla chitarra, Charlie Colin al basso e Scott Underwood alla batteria, consolidando così nel 1994 la formazione dei Train. Nel 1996 i Train tentarono di ottenere un contratto sotto la Columbia Records, ma furono respinti. Successivamente la band decise di pubblicare il suo primo album omonimo indipendentemente, Train Shake Up Christmas. Before I get too old and don't remember it, so let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up. Shake up Christmas. I Train. Train. Buono. Bravo Nanno. Grazie. Ma andiamo via. No, ancora sono qui. Un po' via, vai. Buongiorno. Ora vo via. Buongiorno. Buongiorno Alessandro. Grazie. L'ultima canzone per oggi. Maestra, posso andare in bagno? Prego. No. Alessandro, finisci di leggere l'ultima canzone di questa puntata e poi puoi andare. John Winston Ono Lennon, dal 62 al 70, è stato compositore e cantante del gruppo musicale dei Beatles, dei quali, in coppia con Paul McCartney, ha composto anche la maggior parte delle canzoni. Con Paul McCartney ha formato una delle più importanti partnership musicali di successo della storia e della musica del XX secolo, scrivendo alcune tra le canzoni più famose della storia del rock and roll. È il cantautore di maggior successo nella storia delle classifiche inglesi, seguito da McCartney. Nel 2002, in un sondaggio della BBC sulle 100 personalità britanniche più importanti di tutti i tempi, si è classificato ottavo. insomma, beh. Non male, no. Direi di no. Però può dire la sua. Terminata l'esperienza con i Beatles, John Lennon fa anche musica solista, autore di disegni e testi poetici, nonché attivista politico e paladino del pacifismo. Questo gli causò non pochi problemi con le autorità statunitensi, che per lungo tempo spiarono tutte le sue attività e quelle della moglie Yoko Ono, considerandolo un sovversivo e rifiutandogli più volte la green card. Fu assassinato a colpi di rivoltella da un suo stesso fan, Mark David Chapman, la sera dell'8 dicembre del 1980 a New York. Lennon si sposò due volte. Dal primo matrimonio con Cynthia Powell ebbe il figlio Julian, mentre dal secondo matrimonio con l'artista giapponese Yoko Ono nacque il figlio Sean. Entrambi i figli hanno seguito la carriera artistica del padre. Dopo il matrimonio con Yoko, John cambiò il proprio nome all'anagrafe con John Ono Lennon. Lennon è stato posizionato al quinto posto della lista dei 100 migliori cantanti secondo Rolling Stone e le sue migliori tracce vocali sono Imagine, Strawberry Fields Forever, I Feel Fine e Instant Karma. John Lennon, Happy Christmas. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. And the poor ones, the world is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the John Lennon, Happy Christmas. Una delle più belle canzoni, direi, giusto appunto per finire questa puntata, sì, questo special di Natale. Decisamente. Bene ragazzi, siamo agli sgoccioli, come suggerisce il nostro tecnico Mazzeo. Ebbene sì, ricordiamo gli appuntamenti dopo di noi. Sì, questa sera dalle 22 alle 23 andrà in onda DJ Sandy con Sugar Night, sì. E domani sera Piazza Alta, esatto. Sempre dalle 22 alle 23, esattamente. E ricordo gli appuntamenti come sempre, il la nostra pagina Facebook, il Time Rock and Roll, e il podcast di questa puntata che potete trovare sempre sulla pagina Facebook. E niente, siamo giunti alla fine, l'ultima puntata di questo anno. Ci vediamo il prossimo anno. Sì, ci vediamo il prossimo anno. Noi ritorniamo a gennaio, 8 gennaio, sempre dalle 19 alle 20. Radio F, noi di Old Time Rock and Roll, vi auguriamo a tutti quanti un buon Natale, un felice anno nuovo, un buon feste. Mangiate poco perché dopo c'è la da fare la dieta, c'è da fare il dietologo. Dopo la palestra, mangiate poco. Pesantite, respirate male. Ci risentiamo quindi l'8 gennaio, sempre dai 19 alle 20. Ciao a tutti. Ciao, auguri. Ciao. Auguri.